La sera poi in discoteca insieme a lui. Poteva tutto, ora lo so, ma sotto casa mi riportò. Sei una bambina, ma crescerai. Arrivederci, son sola ormai. E si ripete nel petto mio la cantilena di quell'addio. Grande sei tu, ora ancor di più. E adesso tu